certo, ma capire, voglio capire proprio il principio. Cioè, come facciamo? Cioè, ipotizziamo il caso di voler fare una canzone. Come si fa? Non si può fare. Cioè, eh sì. Eppure io penso, Ayaman, io penso che, essendo l'audio molto... Vabbè, noi stiamo usando la... Volevo capire, ahia me. Proviamo. Sì, stavo testando, perdonatemi, adesso andrò via io. Però potremmo trovare un modo per ritrovarci. Ora non so voi, io ho degli orari assurdi. Chiaramente devo mettere le cuffie, così non abbiamo ritorno nel microfono. Non abbiamo loop. Però questa è una grande cosa, è una grande cosa. Io sono riuscito adesso finalmente a installarlo, perché il 4 hanno, ho visto che l'11 aprile a me dava l'errore della DLL e non me lo faceva installare. Ah. Grande. Ottimo. Come si fa? Come ci si fa a trovare? Cioè, è praticamente niente, chi trovi, trovi. È così. Ottimo, ragazzi, siete i primi ninjammer che ho trovato. Fantastico. Vai, ti seguo. Dicevi Ayamel, in teoria? Mm.